la tua vendetta. Amici di Pompeo, si dispetti la vita. In Berenice vadan tutti a ferir le nostre spade. Traditore, venite, ecco il mio petto. Principi, è tempo mai che in voi si estingua delle vostre ire il fuoco. Alterna voce dal generoso cuore risorger faccia il già subito amore. Vuoi la mia morte? Eccoti il ferro, uccidimi! Oltre Selinda e vita e regno.